GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Era stato condannato a 5 anni di reclusione l'uomo che, secondo la procura di Udine, ha ucciso l'ex moglie. La protezione civile regionale si ferma, sospese le attività da parte dei comuni in attesa di una norma che tuteli da conseguenze penali e civili sindaci e coordinatori dopo il caso Preone. Riunione urgente il 23 aprile convocata dall'assessore Riccardi. Denunciato uno studente macedone per i reati di lesioni e violenza sessuale, vittima una studentessa. L'episodio è avvenuto la scorsa settimana in un locale sulle rive triestine. Migliora il tempo in vista delle festività pasquali, nonostante il rischio di qualche ulteriore pioggia. Daniel Oren sul podio del Teatro Verdi di Trieste ha diretto la prima di Lucia di Lammermoor di Donizetti, successo pieno per tutti gli interpreti e soprattutto per la protagonista femminile. Buongiorno da Lara Zani e Sebastiano Franco, seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che si apre con il nuovo caso di femminicidio. Per uccidere ha sfruttato il permesso che gli era stato concesso dal Tribunale di Udine Mohamed Sadi, il 59enne presunto femminicida di Samia Khedim, la donna di 46 anni da cui si stava separando. Per le violenze perpetrate su di lei il mese scorso era stato condannato a oltre 5 anni di reclusione. Dalla detenzione al carcere di Gorizia la misura cautelare era stata trasformata in domiciliari. Viveva in un appartamento di Monfalcone e aveva il permesso di uscire dalle 9 alle 11 il martedì e il giovedì. L'allarme è scattato ieri solo alle 11, quando il dispositivo si è riattivato e ha rilevato che non era a casa, ma aveva già ucciso sua moglie e si stava per schiantare mortalmente contro un mezzo pesante sulla Pontebbana. Abbiamo intervistato l'avvocata della signora Khedim, sentiamola. La signora Khedim, che era mia assistita nel procedimento penale nei confronti del coniuge e nel procedimento civile per la separazione instaurata, per come l'ho conosciuta io, nonostante tutte le difficoltà, era una signora, una donna piena di vita, solare, pronta a ricominciare. Il suo unico desiderio era quello di separarsi dal marito e di riprendere in mano la sua vita dopo tutto quello che era successo. È stato difficile per lei denunciare? La signora sicuramente sì, non l'ho assistita io quando ho denunciato, ma sicuramente è stato difficile per lei. Nonostante questo ha trovato la forza? Sì, assolutamente, era convinta e decisa e voleva proseguire, non ha ritenuto di farsi da parte o di cambiare idea, assolutamente. Aveva paura dell'uomo che l'aggrediva? La signora Khedim ha sempre manifestato timore nei confronti del marito, visto quello che succedeva, visti i precedenti. Si aspettava una evoluzione di questo tipo, di questa vicenda, la signora? Non me l'ha mai detto apertamente. Sicuramente il timore l'avrà magari portata a pensarlo, però non mi ha espresso questo timore concreto. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Caso Resinovic, ieri ha parlato il fratello Sergio, che intende denunciare all'ordine dei medici i due consulenti della procura che hanno effettuato la prima perizia sul corpo di Liliana Resinovic. Denuncia che però non si è ancora concretizzata. Non è ancora arrivato all'ordine dei medici l'esposto annunciato dal fratello di Liliana Resinovic contro l'operato dei due medici incaricati dalla procura del primo esame autoptico sul corpo della sorella. Se e quando arriverà, fa sapere il presidente, valuteremo i contenuti. Intanto l'avvocato Paolo Bevilacqua, che difende Sebastiano Visintin, il marito della donna, minaccia denunce contro i giornalisti che da giorni assediano la casa dell'uomo. Stiamo assistendo a un vero e proprio sciacallaggio, afferma, aggiungendo che la via dove stazionano cameraman e redattori è privata. A seguito dell'iscrizione del suo cliente nel registro degli indagati, l'avvocato è alle prese con la costituzione di un nuovo collegio peritale, del quale faranno parte nuovamente il medico legale Raffaele Barisani e l'ex comandante dei RIS Luciano Garofano, ma ci sarà anche Noemi Procopio, scienziata forense dell'Università di Lancaster nel Regno Unito, che si occupa di ricerca sperimentale sul microbiologico microbioma. A lei la difesa di Visintin aveva chiesto di esaminare dei tamponi prelevati dal naso e dalla gola di Liliana. Il suo esame si concluse con una diversa valutazione sul momento della morte della donna. Questa, a suo parere, non sarebbe morta poco dopo la sua sparizione, come afferma la seconda indagine peritale commissionata dalla procura ad alcuni specialisti, tra cui Cristina Cattaneo, bensì 12 ore prima del ritrovamento del cadavere, o in alternativa il suo corpo potrebbe essere stato congelato. Il congelamento, escluso dalla perizia Cattaneo, viene sostenuto da Procopio proprio sulla base delle sue ricerche sul microbioma. Nei campioni esaminati sarebbe stato trovato un elemento che deporrebbe proprio a favore di questa ipotesi. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato denunciato uno studente macedone per i reati di lesioni e violenza sessuale, vittima una studentessa. L'episodio è avvenuto la scorsa settimana in un locale sulle rive triestine verso l'ora di pranzo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, all'entrata del locale la ragazza, insieme alla sorella e ad un'amica, si è sentita palpeggiare il fondoschiena dal ragazzo che, con atteggiamento indifferente, si è poi seduto al bar. Alle richieste di spiegazioni, il ragazzo si è avvicinato alla sorella della vittima e le ha sferrato un pugno all'altezza del collo. La ragazza ferita è stata quindi portata in pronto soccorso in codice arancione. Lo studente universitario di nazionalità macedone si trova in Italia con visto di studio scaduto ma in corso di rinnovo. La Protezione Civile incrocia le braccia. 44 comuni montani hanno deciso di sospendere ogni attività in attesa di una norma che tuteli da conseguenze penali e civili sindaci e coordinatori dopo il caso Preone. In caso di alluvioni o frane i prefetti dovranno contare solo sui vigili del fuoco, ha detto il sindaco di Ovaro Lino Not. Intanto Riccardi, rientrato da Roma, convoca una riunione urgente il 23 aprile. Nuvoloni neri incombono sulle montagne, montagne già piene d'acqua che faticano a drenare. Il maltempo è sempre dietro l'angolo in Carnia, ma questa volta, se dovesse arrivare, il territorio non potrebbe contare sull'indispensabile presenza di chi, da quasi 50 anni, protegge questi luoghi. A due settimane dall'anniversario del terremoto del 76, momento in cui di fatto nacque la Protezione Civile regionale, sono pronti a incrociare le braccia i volontari. Sospese tutte le attività di protezione civile nella Carnia fino a data da destinarsi, con una lettera a tutti i sindaci dei 28 comuni, la comunità montana sceglie di prendere questa decisione dopo il rinvio a giudizio del sindaco di Preone, il coordinatore della protezione civile, per la morte di un volontario impegnato in attività dopo il maltempo. Noi siamo con il presidente dell'assemblea e sindaco di Ovaro, Lino Notta, il quale appunto chiediamo, sindaco, lei ha firmato questa lettera e ha detto basta, adesso noi non ci stiamo, che cosa chiedete? Adesso chiediamo che la Regione, ma in particolare il Governo, il Parlamento nazionale, intervengano per fare una norma che dia garanzia e certezza sulle responsabilità dei sindaci e dei coordinatori e dei volontari. Ieri c'è stato un incontro a Roma, Riccardi, che ha detto che vi convocherà il 23 di aprile qui in Regione, sembra aver portato a caso il fatto che verrà scritta una sorta di norma. Ma la volontà mi sembra è di andare avanti e di trovare la maniera di risolvere il problema. Sicuramente sono da fare ancora diversi passaggi a vari livelli e quindi non è che la cosa sia immediata, per cui fino a quando la cosa non è risolta, la decisione che abbiamo preso tutti i sindaci della Carnia è di sospendere l'attività. E se dovesse venire un'ondata di maltempo, problemi sul territorio, cosa fate? Comunichiamo alla prefettura che allerterà i vigili del fuoco. Ovaro, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. I gruppi di opposizione in Consiglio regionale hanno presentato un'interrogazione alla Giunta in merito al diniego opposto dal Comune di Trieste alla richiesta di patrocinio per la festa del 25 aprile, proposta dal Comitato 25 aprile che riunisce ANPI, CGIL, forze politiche, associazioni studentesche e soggetti attivi sul territorio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa, prevista in Campo San Giacomo, nasceva con l'intento di affiancare le celebrazioni istituzionali, offrendo un'occasione di partecipazione pubblica alla cittadinanza con contenuti culturali e sociali in linea con il significato della giornata, una proposta dunque complementare alle cerimonie ufficiali. La motivazione con cui l'amministrazione comunale ha respinto la richiesta, secondo cui il patrocinio sarebbe pleonastico, poiché la liberazione è già riconosciuta come festa nazionale, appare poco convincente e rischia di ridurre il ruolo delle istituzioni locali a mera esecutività formale, anziché soggetto attivo nel dialogo con la società e nella promozione della memoria democratica, dichiarano questo gli esponenti delle forze di opposizione in Consiglio regionale. E Uno sguardo al tempo, cielo da poco nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 14 gradi e 5 decimi, a Udine 16 gradi, a Gorizia e Pordenone 15 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 10 gradi, a Tarvisio e Forni di Sopra 8 gradi e mezzo, a Piancavallo 6, sul Monte Zoncolan 3 gradi, sul Monte Lussari 1 grado e mezzo, a Lignano 16 gradi e mezzo, a Grado 15 gradi. E dopo la pioggia di questi giorni, tempo in miglioramento nel fine settimana di Pasqua, anche se resta il rischio di qualche rovescio. Sentiamo Federico Bonaldo dell'ARPA FVG. Questa settimana è stata piuttosto perturbata sulla nostra regione, da domenica che piove ormai tutti i giorni, ma già da oggi il tempo sta iniziando a migliorare e lo farà con più decisione in questo fine settimana pasquale. Scendendo nel dettaglio, nella giornata di oggi, venerdì 18 aprile, durante il pomeriggio saranno possibili delle schiarite, specie verso la costa, anche se sulla zona montana saranno ancora possibili rovesci o temporali. La quota neve sarà 1700 metri circa, con temperature che raggiungeranno in pianura i 18 gradi. Nella giornata di domani, sabato 19 aprile, per l'appunto il tempo migliorerà ancora. Su pianura e costa il cielo sarà invariabile. Invece sulla zona montana ci sarà ancora un po' di umidità con nuvolosità e qualche rovescio temporale nelle ore pomeridiane, sarà ancora possibile. Temperature in leggero aumento fino a 20 gradi. La giornata di Pasqua proseguirà ancora appunto il miglioramento, cielo per lo più variabile su tutta la regione, non escluso sulla zona montana ancora qualche locale rovescio. Sulla costa soffieranno venti di brezza e le temperature massime del giorno di Pasqua raggiungeranno anche i 22 gradi. Anche nella giornata di Pasquetta il cielo sarà complessivamente variabile e con temperature piuttosto primaverili in pianura fino a 22-23 gradi. Sono terminati i lavori di parziale pulizia dell'amianto dal greto del Maniaghese. Lo ha comunicato il consorzio di bonifica Cellina Meduna, che ha curato l'operazione per conto della regione. L'intervento ha permesso di individuare e mettere in sicurezza una delle aree del Cellina maggiormente contaminate dall'asbesto industriale. In passato, secondo una pratica diffusa e consentita fino agli anni 70, il pericoloso componente veniva infatti interrato senza alcuna precauzione nei campi o lungo i fiumi. La riqualificazione è durata circa 3 mesi. Il finanziamento regionale ammontava a oltre 800.000 euro, ma gli alti costi di prelievo, trasporto e smaltimento del composto cancerogeno consentivano solo la bonifica di una minima parte di quanto ancora giace lungo il corso d'acqua. Traffici in aumento per il porto di Trieste, che non risente dei dazi. L'intervista al commissario Vittorio Torbianelli. Traffici in aumento anche rispetto agli anni record. Il porto di Trieste, la cui nomina del nuovo presidente è imminente, risponde bene, non paga dazio in tutti i sensi, non avendo traffici significativi con gli Stati Uniti, numeri del primo trimestre che fanno ben sperare per il commissario Vittorio Torbianelli. Il 2024 era iniziato con toni preoccupanti, poi in realtà era stato un anno stabile, quindi positivo, considerata lo scenario di gennaio, febbraio, marzo, che in cui Suez aveva, come dicevo, preoccupato. Io ieri ho guardato i dati del primo trimestre 2025 e li ho confrontati con il 2023, proprio per evitare dei numeri troppo alti rispetto al primo periodo dell'altro anno, e abbiamo dei risultati che sono buoni, perché il porto, anche rispetto al 2023, a parte il petrolio, perché in questo momento ci sono delle questioni nelle raffinerie, diciamo, del centro Europa, è cresciuto. Nonostante qualche problema sulle infrastrutture strategiche, l'autorità ha ritirato la gara per la costruzione della vitale stazione di Servola, visti i tempi dilatati, ma è fiduciosa che i soldi arrivino lo stesso dal Ministero dei Trasporti e l'opera si riesca a fare. Il porto triestino ha sempre risposto presente alle tante crisi geopolitiche degli ultimi anni, tra pandemie, guerre e crisi. Qual è il segreto? Essere un porto che ha una buona reputazione e delle capacità effettive di dare servizio e continuità. Ricordiamo che il porto di Trieste è oggi un porto che vive ancora, e io spero ancora per tanto tempo, in una pax sociale che reputazionalmente lo definisce come un porto molto affidabile. E poi bisogna navigare, perché alla fine chi conosce il mare sa che non si può immaginare che il vento sia sempre lo stesso, e avere però una barca che riesce ad adattarsi. Noi abbiamo la fortuna di avere tanti tipi di traffico, quindi una diversificazione di portafogli traffici che assicura un po' sui rischi, e questo è un grande valore. E poi comunque siamo al centro di una zona dove c'è interesse, anche la concorrenza, il fatto che le linee cambino. Per esempio quest'anno abbiamo avuto delle modifiche importanti nelle strutture delle linee, abbiamo nuovi servizi mediterranei, ma anche le nuovi servizi contenitori, sempre dall'Egitto ma anche da altre destinazioni. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In occasione della Pasqua Essere Animali, Animal Welfare Foundation, Animals Angels ed EMPA sono tornati sulle autostrade italiane per effettuare il monitoraggio dei camion carichi di ovini diretti ai macelli. Negli ultimi giorni le associazioni hanno presidiato i valichi di frontiera a Fernetti e a Gorizia, al confine con la Slovenia, da cui provengono gli agnelli allevati nell'est Europa. Monitorati in tutto 20 camion. Solo in due casi sono intervenute le forze dell'ordine sollecitate dalle associazioni e in entrambi sono state riscontrate violazioni. Un terzo caso, avvenuto tra il 16 e il 17 aprile al confine sloveno, ha portato alla morte di due agnellini che risultavano già deceduti nel camion. Le associazioni hanno segnalato il trasporto a tutte le autorità lungo un percorso di 700 chilometri, ma nessuna forza di polizia è intervenuta, denunciano le associazioni. Attualmente l'est Europa è colpito dalla peste dei piccoli ruminanti e dall'afta epizootica e per questo è stato allestito un checkpoint di polizia ed esercito alle dogane di Fernetti e Gorizia con lo scopo di sanificare tutti i mezzi che trasportano animali in entrata in Italia. L'attuale legislazione UE sul trasporto di animali vivi deve essere urgentemente modificata, sostengono le associazioni animaliste. Villa Manina Passariano è al centro di un'importante opera di restauro, in particolare dell'esedra e della Torre di Levante, entro la quale si inseriscono i lavori di finitura necessari all'esposizione delle opere d'arte della mostra Confini. Lo comunica l'assessore al demanio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari. L'appalto dei lavori di restauro dell'esedra e della Torre di Levante, avviato nel marzo 2024, è in fase di conclusione, ha spiegato Callari. Restituirà spazi dotati di tutti gli impianti tecnologici necessari, garantendo adeguata climatizzazione e sicurezza contro le effrazioni. Il progetto, relativo ai lavori di finitura, prevede un quadro economico complessivo di spesa stimato di circa 2 milioni di euro. Saranno gli studenti dell'ISES Solari di Tolmezzo a rappresentare l'Italia alla Popri Youth Competition, che si terrà il 6 e il 7 maggio sull'isola di Creta, in Grecia. Lo annuncia con cooperativa FVG, partner del progetto internazionale Popri, un'iniziativa che si inserisce nella strategia EUSAIR con l'obiettivo di promuovere l'imprenditorialità giovanile e la cooperazione transnazionale tra i paesi dell'area adriatico-ionica. Torna uno degli appuntamenti storici a livello nazionale per la conoscenza e promozione dei vitigni autoctoni. A Butrio, nei Colli Orientali del Friuli, dal 6 all'8 giugno si terrà la 92esima edizione della Fiera Regionale dei Vini, confermata come sede dei festeggiamenti Villa di Topo Florio. In occasione della Santa Pasqua ortodossa, che quest'anno cade il 20 aprile, nella chiesa di San Nicolò a Trieste, in riva 3 novembre, sarà celebrata oggi alle 19.30 la sacra funzione dell'Epitaffio, alla fine della quale intorno alle 21 si svolgerà la processione dell'Epitaffio all'esterno della chiesa, nella zona compresa tra chiesa di San Nicolò, piazza Tommaseo, piazza Verdi, via Passo di Piazza Fonda, piazza Unità d'Italia, Molo Audace, riva 3 novembre, parcheggi, chiesa di San Nicolò, accompagnata dalla banda musicale Refolo. A Pordenone, oggi tradizionali processioni del Venerdì Santo in varie parrocchie di Pordenone con divieti e limitazione alla circolazione stradale a partire dalle 20.30 nella zona della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano a Torre e in quella del Sacro Cuore. Per consentire invece la processione che partirà dalla chiesa di San Giorgio e terminerà nella concattedrale San Marco dalle 18.30 alle 21.30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in largo San Giorgio su tutti gli stalli di sosta antistanti l'omonima chiesa. Nella parrocchia del Cristo Re, circolazione stradale interdetta dalle 20.15 fino alla conclusione del passaggio dei fedeli. Siamo alla musica. Daniel Oren ieri sera sul podio del Teatro Verdi di Trieste ha diretto la prima di Lucia di Lammermoor di Donizetti. Successo pieno per tutti gli interpreti e soprattutto per la protagonista femminile. In Lucia di Lammermoor la scena chiave è quella dove la protagonista, impazzita dopo aver ucciso l'uomo che le era stato imposto come marito, entra in scena coperta di sangue, suscitando l'orrore e la pietà di tutti i presenti. E se funziona questa scena, funziona tutta la rappresentazione. Di conseguenza ha funzionato benissimo anche la prima dell'opera di Donizetti, andata in scena al Teatro Verdi di Trieste, ed è stato un trionfo per Jessica Pratt che, nonostante una leggera indisposizione, ha risolto brillantemente le difficoltà tecniche proposte dalla partitura e dalle sue tradizionali variazioni, con la curiosità in orchestra del timbro dell'armonica a bicchieri, uno strumento che raramente si ascolta e che Donizetti usa per sottolineare lo stato mentale di Lucia. Sullo stesso livello anche la prova di Stefan Pop nei panni di Edgardo, il vero amore di Lucia, e sicuro il ritmo drammatico imposto da Daniel Oren alla guida dei complessi del Verdi, al netto di qualche incertezza strumentale, e con una prova del coro che si è confermato come un patrimonio della comunità musicale della città e non solo. Messa in scena essenziale sui toni del grigio e del nero, appena ravvivati da tocchi di colore negli abiti femminili e nelle sciarpe in tessuto tartan sulle uniformi degli uomini, a ricordare l'ambientazione scozzese. Le repliche di Lucia di Lammermoor andranno avanti al Verdi fino al 27 aprile. Trieste, Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Ritorna a Trieste il ciclo di eventi Vie di Fuga, aperitivo con l'arte, con uno spettacolo dedicato alla storia di Letizia Battaglia, prima donna europea a ricevere il prestigioso premio Eugene Smith per la fotografia sociale nel 1985 a New York. A distanza di un cazzotto, Letizia Battaglia, fotografia di mafia. Un documentario live tra parole, immagini e musica con Michela Cembrana, attrice, Massimo Tommasini, fotografo, e le note alla chitarra di Amir Karalic, regia di Massimo Tommasini. Alle 20.30 ad Hangar Teatri di Trieste. Da oggi a lunedì 21 aprile, nell'area dell'ex caserma Filzi e del baluardo Donato a Palmanova, la prima edizione di Palma alle Arti, una 4 giorni d'arte. Dopo l'inaugurazione ufficiale alle 18, l'evento di poesia La Stella Manovella e l'inizio dell'esposizione di arte contemporanea Palma alle Arti. La mostra fotografica personale P-Parking di Giuseppe Pons sarà presentata alle 18 presso Bivium in via 30 ottobre a Trieste, all'interno del circuito espositivo delle vie delle foto. L'autore sarà presente per raccontare il progetto e il percorso che l'ha ispirato. Per lo sport, il calcio, l'Udinese giocherà lunedì 28 aprile la 34esima giornata di campionato alle 18.30 allo Stadio Friuli contro il Bologna. Il giornale finisce qui, sono le 12.52 e 36 secondi, grazie in regia a Mauro Ceccarelli e Samuel Montalto, a Laura Sarasini in segreteria, da Lara Zani e Sebastiano Franco l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.